Capitolo 15. Miss Crawford accettò prontamente la parte propostale e, poco dopo il ritorno di Miss Bertram dalla canonica, Mr. Rushworth giunse a Mansfield. Un altro personaggio fu di conseguenza assegnato. Gli era stata offerta la parte del conte Castle o quella di Anhalt e a tutta prima, non sapendo quale scegliere, chiese a Miss Bertram di consigliarlo. Ma quando gli spiegarono il diverso stile dei due personaggi e chi era l'uno e chi era l'altro, si ricordò che una volta a Londra aveva visto rappresentare il lavoro e aveva trovato che Anhalt era un individuo molto sciocco, perciò decise senz'altro per il conte. Miss Bertram approvò la scelta perché quante meno erano le battute che gli doveva imparare a memoria, tanto meglio sarebbe stato. E benché non condividesse il desiderio espresso da lui che Agatha e il conte ogni tanto fossero in scena insieme e non sapesse aspettare con molta pazienza mentre egli voltava lentamente le pagine nella speranza di incontrare le scene desiderate, molto gentilmente si sobbarcò il compito di prendere in mano la sua parte, abbreviando ogni tirata appena consentisse dei tagli. Inoltre, dedicò molta attenzione ai costumi che avrebbe dovuto indossare e ne scelse per lui i colori. A Mr. Rushworth piacque molto la prospettiva di presentarsi in scena indossando abiti lussuosi, anche se affettava di sminuire l'importanza della cosa ed era troppo compreso della figura che avrebbe fatta lui per preoccuparsi degli altri o per trarre certe conclusioni ed esprimere la propria disapprovazione, cose tra l'altro alle quali Maria si era mezzo preparata. Così molti punti furono sistemati prima che Edmund, che era stato assente per tutta la mattinata, ne sapesse nulla. Ma quando entrò in salotto prima del pranzo, accolto dal ronzio dell'amichevole discussione che si svolgeva fra Maria, Tom e Mr. Yates, Mr. Rushworth si fece avanti con grande alacrità per comunicargli la lieta notizia. «Abbiamo trovato il lavoro», disse. «Metteremo in scena Lover's Vows e io sarò il conte Castle e entrerò in scena la prima volta con un abito azzurro e un mantello di raso rosa e poi una seconda volta indossando un altro bel costume, un abito da caccia». Non so se mi piacerà veramente. Gli occhi di Fanny erano fissi sul viso di Edmund per leggervi le attese reazioni e il suo cuore batteva per lui mentre egli ascoltava le parole di Mr. Rushworth, mutando espressione via via che quello procedeva. Capì quali sentimenti lo agitavano. Lover's vows? Fu l'unica stupefatta risposta che gli diede a Mr. Rushworth. Poi si volse al fratello e alle sorelle come aspettando un diniego. «Proprio così!» esclamò Mr. Yates. «Dopo tante discussioni e difficoltà siamo giunti alla conclusione che non vi è niente che faccia meglio al caso nostro, niente di più perfettamente adatto di Lover's Vows. Anzi, mi sorprendo di non averci pensato prima. Sono stato terribilmente stupido, perché così abbiamo tutti i vantaggi di quanto ho visto a Ecclesford. Ed è così utile avere un punto di riferimento. Abbiamo assegnato quasi tutte le parti». «Ma... e cosa contate di fare per le parti femminili?» disse Edmund con espressione grave guardando Maria. Lei arrossì a dispetto di se stessa mentre rispondeva. «Io ho la parte che Lady Ravenshaw avrebbe dovuto rappresentare a Exford e, con uno sguardo più sicuro, Miss Crawford sarà Amelia». Non avrei mai supposto che questo fosse il genere di copione da considerarsi adatto per essere rappresentato da noi, disse Edmund, volgendosi verso il caminetto presso cui sua madre, sua zia e Fanny sedevano e prendendo posto vicino a loro con espressione estremamente contrariata. Mr. Rushworth lo seguì per aggiungere ulteriori informazioni. «Io sono di scena 3 volte e ho 42 battute, un bel po', vero? Ma non mi piace molto l'idea di essere vestito con tanta pompa, quasi non riconoscerò me stesso in abito azzurro e mantello di raso rosa». Edmund non trovò parole per rispondergli adeguatamente. Da lì a pochi minuti Mr. Bertram fu chiamato fuori dalla stanza per risolvere alcuni problemi col falegname e uscì accompagnato da Mr. Yates e seguito quasi immediatamente da Mr. Rushworth. Edmund, senza por tempo in mezzo, colse l'opportunità per esprimere il suo parere. «Non potevo dire quel che penso di questo lavoro di fronte a Mr. Yates, senza criticare per riflesso i suoi amici di Ecclesford, ma ora, mia cara Maria, devo dirti che lo trovo assolutamente improprio per una rappresentazione familiare e che spero che tu vi rinuncerai. Non dubito che lo farai dopo che l'avrai letto attentamente. Leggi ad alta voce, anche solamente il primo atto, o a nostra madre o alla zia, e vedi se ti riesce di accettare di fare quella parte. Non sarà necessario di rinviarti al giudizio di nostro padre, ne sono certo. Noi due vediamo le cose in modo assai diverso, esclamò Maria. Conosco benissimo il testo, te lo assicuro, e con pochissimi tagli e altre cose del genere, che naturalmente saranno fatti, non ci vedo nulla di riprovevole e io, come hai visto, non sono la sola signorina che trovi il testo adatto a una rappresentazione in famiglia. Me ne dispiace, fu la risposta di lui. Ma in una cosa del genere sei tu che devi far da guida, tu devi dar l'esempio. Se altri hanno fatto un passo falso, tocca a te rimetterli in carreggiata e mostrar loro in che consiste la vera delicatezza. Per quel che riguarda il decoro, è la tua condotta che deve dettare legge agli altri membri della compagnia. Questo modo di presentarle la sua importanza sortì un certo effetto, poiché a nessuno più che a lei piaceva primeggiare, perciò rispose con maggiore buona grazia di prima. Ti sono molto obbligata, Edmund. Le tue intenzioni sono certamente eccellenti, ma tuttavia continuo a pensare che tu veda le cose con occhio troppo severo e, in verità, non posso mettermi ad arringare gli altri su un simile tema. Proprio in questo consisterebbe la maggior mancanza al decoro. Puoi pensare che mi sia venuta in mente una simile idea? No? Fai in modo che la tua condotta sia l'arringa migliore. Di semplicemente che dopo aver esaminata la parte non ti senti di sostenerla, che ti sembra richieda più esperienza e disinvoltura di quanta tu ne abbia. Dillo con fermezza e sarà più che sufficiente. Chiunque in grado di capire vedrà chiaramente qual è il motivo del tuo rifiuto. Quel testo verrà scartato e la tua delicatezza sarà onorata come merita di esserlo. Non accettare una parte spinta, mia cara, disse Lady Bertram. A Sir Thomas non piacerebbe. Fanny, suona il campanello, desidero pranzare. A quest'ora Giulia sarà certamente pronta per scendere a tavola. Sono convinto, signora, disse Edmund, prevenendo Fanny, che a Sir Thomas la cosa non piacerebbe. Ecco, mia cara, hai sentito quello che ha detto Edmund? Se io declinassi la parte, disse Maria con rinnovato calore, Giulia sarebbe pronta a prenderla per sé. Come? Disse Edmund. Conoscendo i motivi del rifiuto? Oh, potrebbe pensare che data la differenza che c'è fra noi, la diversità delle nostre situazioni, lei non ha bisogno di essere così scrupolosa come io potrei ritenere necessario. Sono certa che questo sarebbe il suo ragionamento. No, devi scusarmi, ma non posso tornare sul consenso dato. Ogni cosa è ormai decisa, tutti sarebbero delusi, Tom ne sarebbe irritatissimo e se siamo tanto schizzinosi non metteremo mai niente in scena. Stavo appunto per dire la stessa cosa, intervenne Mrs. Norris. Se si muovono obiezioni a tutti i copioni, non metterete mai niente in scena e i preparativi già fatti si risolverebbero in un mucchio di denaro gettato via e questo, sono certa, tornerebbe a discredito di tutti noi. Non conosco il dramma, ma se, come dice Maria, contiene qualche battuta un po' troppo audace, e questo avviene di fatto nella maggior parte dei copioni teatrali, può facilmente essere lasciata fuori. Non dobbiamo fare troppi difficili, Edmund, visto che anche Mr. Rushworth recita, non può esservi nulla di male per tua sorella. Vorrei solo che Tom avesse avuto le idee chiare quando i falegnami hanno iniziato il lavoro, perché così si sarebbe evitato di perdere mezza giornata per via di quelle porte laterali. Il sipario però sarà un lavoro a modo. Le cameriere fanno la loro parte proprio a puntino e penso che riusciremo a mandare indietro al fornitore qualche dozzina di anelli. Non c'è motivo di metterli tanto ravvicinati. Io mi rendo abbastanza utile, credo, impedendo gli sprechi e ricavando quanto più possibile dalle cose. Dovrebbe sempre esserci una persona con la testa ben salda sulle spalle a sovraintendere le trovate di tanti giovani cervelli. E ho dimenticato di segnalare a Tom una cosa che mi è capitata proprio oggi. Avevo finito di guardarmi intorno nel cortile rustico e stavo appunto per venirne via quando chi ti vedo arrivare se non proprio Dick Jackson che si avvicinava all'ingresso di servizio reggendo due ceppi di abete che portava a suo padre. Naturalmente. Sua madre l'aveva mandato a fare un'ambasciata al padre e allora il padre gli aveva comandato di portargli quei due pezzi di legno perché non poteva assolutamente farne senza. Sapevo benissimo cosa significava tutto quel maneggio. La campana del pranzo della servitù stava suonando proprio in quel momento sopra le nostre teste e siccome detesto quella razza di scrocconi, i Jackson sono proprio degli scrocconi, l'ho sempre detto io, proprio quel tipo di gente che arraffa tutto quello che può, ho detto seduta stante al ragazzo, un ragazzo grande e grosso, di 10 anni, sapete, che si dovrebbe vergognare, Porterò io i ceppi a tuo padre, Dick, perciò tornatene a casa alla svelta. Il ragazzo è rimasto sconcertato e se n'è andato senza dir parola, visto che credo di saper parlare molto seccamente quando ne è il caso. Oso dire che questo lo guarirà per un po' di tempo dal venire a bighellonare intorno alla casa all'ora di pranzo. Detesto una simile ingordigia. Buono com'è vostro padre con quella famiglia, vostro padre che dà lavoro a quell'uomo da un capo all'altro dell'anno. Nessuno dei presenti si prese la briga di risponderle. Gli assenti rientrarono da lì a poco e Edmund si rese conto che era inutile fare altri tentativi di persuaderli. Il pranzo fu consumato in un'atmosfera pesante. Mrs. Norris narrò nuovamente il suo trionfo su Dick Jackson, ma non si parlò molto né della recita né dei suoi preparativi, perché perfino Tom, anche se non lo voleva ammettere, avvertiva la disapprovazione del fratello. Maria, priva del sostegno corroborante di Mr. Crawford, pensava fosse meglio non toccare quel tasto. Mr. Yates, nel tentativo di ingraziarsi Giulia, constatò che fra tutti gli argomenti possibili, quello del proprio disappunto al vederla abbandonare il gruppo degli attori era il meno adatto ad attenuare il malumore di lei, e Mr. Ashworth, che sapeva pensare solo alla propria parte e ai propri costumi, esaurì ben presto quanto vi era da dire in proposito. Ma il discorso sul teatro fu accantonato solamente per un'ora o due. C'erano ancora molte cose da mettere a punto e quando, al calar della sera, le tensioni si allentarono e gli attori in erba ritrovarono coraggio e animazione, Tom, Maria e Mr. Yates, subito dopo che la famiglia si fu riunita nuovamente in salotto, sedettero in commissione a un tavolino in disparte con il testo squadernato sotto gli occhi. Stavano impegnandosi nuovamente nell'esame della situazione quando sopraggiunse una graditissima interruzione con l'ingresso fuori programma di Mr. e Miss Crawford che, benché fosse tardi, facesse buio e i sentieri fossero fangosi, non avevano saputo resistere all'impulso di venire. Furono accolti con gioia e ai primi saluti seguirono frasi come «Ebbene, a che punto siete? Che cosa avete stabilito? Oh, non potevamo decidere niente senza di voi!» E Henry Crawford si trovò ben presto seduto con gli altri tre al tavolino, mentre sua sorella andava verso Lady Bertram per salutarla con graziosa deferenza. «Devo proprio congratularmi con vostra signoria», disse, «per la conclusione finalmente raggiunta, poiché, nonostante l'esemplare pazienza con cui ci ha sopportati, sono certa che non ne poteva più di tutto il nostro discutere e di tutte le nostre esitazioni». I futuri attori possono ormai dirsi soddisfatti, ma gli spettatori devono essere infinitamente più contenti nel vedere conclusa la parentesi iniziale. E, ripeto, mi congratulo sinceramente con lei, signora, e con Mrs. Norris e con chiunque altro si sia trovato nella stessa incresciosa situazione di spettatore. E a questo punto diresse uno sguardo semi-dubbioso, semi-invitante a Fanny e al di là di lei a Edmund. Lady Bertram le rispose molto cortesemente, ma Edmund non disse parola. Non contestò la sua posizione di semplice spettatore. Dopo aver continuato per alcuni minuti a indirizzare la sua chiacchierata al gruppo che sedeva vicino al caminetto, Miss Crawford tornò a quello che faceva cerchio intorno al tavolo e, rimanendo ritta vicino a loro, sembrò semplicemente interessarsi in silenzio alla conversazione, finché, come rammentandosi improvvisamente di qualcosa, esclamò: «Miei cari amici, siete impegnati a fondo a quanto vedo, intorno a certe casette e a certe birrerie, con tutti i movimenti dentro e fuori, ma per favore, così, tra una cosa e l'altra, fatemi sapere quale sarà la mia sorte. Chi sarà Anhalt? Di chi di voi, signori, avrò il piacere di essere innamorata?» Per un momento nessuno fiatò. Poi parlarono in molti, tutti insieme, per annunciare la stessa triste realtà, che ancora non avevano nessun Anhalt. Mr. Rushworth avrebbe fatto la parte del conte Castle, ma nessuno ancora aveva accettato la parte di Anhalt. «Mi hanno dato da scegliere tra le due parti», disse Mr. Rushworth, «e ho pensato che quella del conte era preferibile, benché non mi vadano granché a genio gli abiti pomposi che dovrò indossare». «Ha scelto molto sensatamente, ne sono certa», disse Miss Crawford, con fare sollevato. «Anhalt ha una parte pesante». «Il conte ha 42 battute», precisò Mr. Ashworth, «il che non è poca cosa». «Non mi sorprende affatto», disse Miss Crawford dopo un breve silenzio, «che non si trovi un Anhalt. Amelia non merita sorte migliore. Una ragazza così sfrontata può ben spaventare gli uomini». Io sarei anche contentissimo di prendere la parte, se fosse possibile, esclamò Tom. Ma disgraziatamente il maggiordomo e Anhalt a volte sono di scena insieme. Però non vi rinuncio definitivamente. Vedrò quel che si può fare. Esaminerò un'altra volta il testo. Tuo fratello dovrebbe prendere la parte, disse Mister Yates a bassa voce. Non pensi che lo farebbe? Io non glielo chiederò, rispose Tom con fredda determinazione. Miss Crawford parlò d'altro e quasi subito tornò a unirsi al gruppo vicino al caminetto. Non hanno nessun bisogno di me, disse mettendosi a sedere. Li intralcio soltanto e li costringo a chiedermi cortesemente di interloquire. Mister Edmund Bertram, visto che non prende parte alla recita, sarà un consigliere disinteressato, perciò mi rivolgo a lei. Cosa possiamo fare a proposito di Anhalt? Doppiarlo è fattibile per uno degli altri attori? Cosa consiglia? Consiglio, rispose lui con tutta calma, di cambiare testo. Oh, per conto mio non vi farei obiezione, rispose lei. Non che mi dispiaccia particolarmente la parte di Amelia, purché sia sostenuta bene. Voglio dire, se tutto andasse bene, ma mi rincrescerebbe creare problemi. D'altronde, se non vogliono dare retta ai suoi consigli a quel tavolino, e a questo punto gettò un'occhiata in giro, certamente non ascolterebbero me. Edmund non fece commenti. Immagino che se una qualsiasi parte potesse invogliarla a recitare sarebbe quella di Anhalt, continuò lei maliziosamente dopo una breve pausa, è un ecclesiastico, come lei ben sa. Questa circostanza non mi tenterebbe in nessun modo, replicò Edmund, anzi mi rincrescerebbe di ridicolizzare il personaggio a causa della mia pessima recitazione. Deve essere assai difficile impedire che Anhalt appaia come un predicatore formale e solenne, e l'uomo che sceglie la carriera ecclesiastica è forse uno degli ultimi che possa desiderare di portarlo sulla scena. Con ciò, Miss Crawford fu messa a tacere e con un lieve senso di dispetto e di mortificazione spostò alquanto la sua sedia, portandola più vicina al tavolo del tè, e concentrò tutta l'attenzione su Mrs. Norris che vi presiedeva. Fanny, chiamò Tom Bertram dall'altro tavolo, dove la conferenza continuava animatissima e il chiacchiericcio non conosceva sosta. Abbiamo bisogno di te. Fanny fu subito in piedi, pensando che volessero affidarle una qualche incombenza, poiché in casa non avevano ancora perduto l'abitudine di ricorrere a lei per cose del genere, a dispetto di tutto quanto potesse fare Edmund per impedirlo. Oh, non occorre che tu lasci il tuo posto, non abbiamo bisogno di te ora, dopo, per la nostra recita. Devi fare la parte della moglie del villico. Io? Esclamò Fanny, rimettendosi a sedere con espressione spaventata. No, no, no, no, no, devi dispensarmene. Non, no, no, no, no, non potrei recitare, nemmeno se mi offriste il mondo in cambio. No, veramente non mi sento di recitare. E invece devi farlo, perché non possiamo dispensartene. Non c'è di che spaventarti, è una parte da niente, proprio da niente, una mezza dozzina di battute in tutto. E se nessuno capirà una sola parola di quello che dici, avrà poca importanza, così potrai nasconderti al tuo talento, ma abbiamo assolutamente bisogno di farti comparire in scena. Oh! Se lei si spaventa per una mezza dozzina di battute, esclamò Mr. Rushworth, cosa direbbe di una parte come la mia? Io ne devo imparare 42. Oh, non è il dover mandare a memoria che mi preoccupa, disse Fanny profondamente imbarazzata nel trovarsi a parlare solo lei, mentre gli occhi di tutti gli astanti la fissavano. Ma è che davvero non posso recitare. Ma sì, saprai recitare bene abbastanza per noi. Impara la tua parte e noi ti insegneremo tutto il resto. Vieni fuori in due sole scene e siccome io sarò il villico, ti introdurrò e ti guiderò in tutto e per tutto. Reciterai benissimo, ne rispondo io. No, davvero, Tom, mi devi scusare, non puoi capire. La cosa mi sarebbe assolutamente impossibile. Se accettassi di assumere la parte, non farei che deluderti. Ah, oh, via, via, non devi essere così timida. La farai benissimo e noi saremo indulgenti. Non ci aspettiamo la perfezione da te. Devi solo procurarti una gonna marrone, un grembiule bianco e una cuffia da contadina. Ti faremo qualche ruga sul viso e un po' di zampe di gallina all'angolo degli occhi e sarai un'accettabilissima vecchietta. Oh, devi dispensarmi, davvero, davvero devi dispensarmi. Esclamò Fanny, che intanto andava arrossendo sempre più per l'eccessiva agitazione e rivolgeva lo sguardo verso Edmund, che la osservava con affetto, ma non volendo esasperare il fratello, si astenne dall'intervenire nella discussione e le rispose con un sorriso incoraggiante. La supplica di Fanny non sortì effetto alcuno con Tom. Egli si limitò a ripetere ostinatamente quanto aveva già detto e ora entrarono a spalleggiarlo Maria, Mr. Crawford e Mr. Yates con un'urgenza che differiva da quella di lui solo nel tono. Più gentile quello di Maria, più cerimonioso quello degli altri due, che lasciò Fanny completamente sopraffatta e prima che potesse riprendersi, Mrs. Norris, irritatissima, completò l'opera rivolgendosi a lei con un sussurro che risultò chiaramente udibile. «Oh, quante storie per una cosa da niente! Mi vergogno proprio per te, Fanny, nel vederti fare tante complicazioni invece di compiacere i tuoi cugini in una cosa di così poca importanza, loro che sono tanto buoni con te!» «Accetta la parte con buona grazia e falla finita, te lo chiedo espressamente!» «Non insista, signora!» intervenne Edmund. «Non è giusto forzarla in questo modo. Vede bene che non desidera recitare. Lasci che scelga liberamente da sé, come qualsiasi altro di noi. Si può fare affidamento sul suo giudizio quanto sul nostro. Non insista oltre.» «Non intendo forzarla», rispose acidamente Mrs. Norris, «ma penso che se non farà quello che sua zia e i suoi cugini desiderano, dimostrerà di essere una ragazza caparbia e ingrata, davvero molto ingrata, considerando chi è e che cosa è.» A queste parole Edmund si sentì troppo furioso per ribattere, ma Miss Crawford, dopo un primo momento di stupore e uno sguardo rapido a Mrs. Norris e a Fanny, le cui lacrime incominciavano a spuntare, disse subito con voce alquanto tagliente: «Non mi piace il posto che occupo, qui fa troppo caldo per me», e spostò la sedia dall'altra parte del tavolo accanto a Fanny, sussurrandole affettuosamente: «Non ci badi, cara Miss Price, questa è una serata piena di malumore. Tutti sono irritati e irritanti, ma non prestiamo loro attenzione.» E con ben marcata gentilezza continuò a parlare con lei, nel tentativo di tirarle su il morale, benché si sentisse giù di corda anche lei. Gettando uno sguardo significativo verso il fratello, riuscì a bloccare ogni ulteriore insistenza da parte del comitato teatrale, e i buoni sentimenti genuini dai quali era prevalentemente governata le fecero riconquistare rapidamente il terreno perduto nell'opinione che Edmund si era fatta di lei. Fanny non provava affetto per Miss Crawford, ma le fu molto grata per quella sua gentilezza, e quando, dopo aver notato il lavoro al quale Fanny era intenta, dopo aver espresso il desiderio di sapere ricamare bene come lei e averle chiesto il campione, dopo essersi detta certa che Fanny si stesse preparando per il suo debutto, poiché ovviamente dopo il matrimonio della cugina avrebbe fatto il suo ingresso in società, quando Miss Crawford le chiese se recentemente avesse ricevuto notizie del fratello e si disse veramente curiosa di conoscerlo e lo immaginò un giovane bello e bravo, e le consigliò alla prossima licenza di indurlo a farsi disegnare il ritratto prima di ripartire, la fanciulla dovette ammettere fra sé e sé che quelle erano piacevolissime lusinghe, né poté fare a meno di porgervi orecchio con piacere e rispondervi con più animazione di quanta avesse l'intenzione di mettervi. Intanto la consultazione intorno all'altro tavolino continuava, e da lì a poco l'attenzione di Miss Crawford fu distolta da Tom, che le diceva di aver verificato che gli era assolutamente impossibile di fare la parte di Anhalt insieme a quella del maggiordomo. Aveva cercato in tutti i modi di combinarle, ma la cosa non era fattibile. Doveva darsi per vinto. «Ma non vi sarà la minima difficoltà nell'assegnarla a qualcuno», aggiunse. «Non avremo che da dire una parola e ci sarà solo la difficoltà della scelta. Posso fin d'ora fare il nome di almeno 6 giovanotti che nel giro di 6 miglia smaniano per poter essere ammessi nella nostra compagnia teatrale, e fra loro ce ne sono 1 o 2 che non ci farebbero fare brutta figura. Affiderei senza timore la parte a uno dei 2 Oliver, quale non importa, o a Charles Maddox. Tom Oliver è un ragazzo molto capace, e Charles Maddox è un perfetto gentiluomo. Farò sellare il mio cavallo domattina per tempo e andrò a Stoke per combinare con uno di loro.» Mentre Tom parlava, Maria osservava ansiosamente Edmund, con la grande apprensione che gli facesse nuove e più consistenti obiezioni a un simile allargamento del progetto iniziale che con tanta evidenza si allontanava da tutte le precedenti assicurazioni, ma Edmund non disse verbo. Dopo un momento di riflessione, Miss Crawford osservò con calma: «Per quel che mi riguarda, non ho da obiettare nulla a quanto lei giudica opportuno di fare. Ho mai incontrato l'uno o l'altro di questi signori?» «Ah, sì, Mr. Charles Maddox ha pranzato una volta in casa di mia sorella, vero, Harry?» Un giovanotto dall'aria tranquilla, me lo ricordo. Si rivolga a lui, per favore, perché così sarà meno spiacevole per me dare la replica a un perfetto sconosciuto. Charles Maddox sarebbe dunque stato il prescelto. Tom ribadì la risoluzione di recarsi da lui il mattino seguente e benché Giulia, che fino a quel momento non aveva quasi aperto bocca, osservasse in tono sarcastico, gettando un'occhiata prima a Maria e poi a Edmund, che la rappresentazione teatrale di Mansfield avrebbe davvero animato tutto il circondario, Edmund ancora non disse parola e manifestò il suo modo di sentire solo, accentuando una ostentata gravità. Non sono granché entusiasta di questa rappresentazione, sussurrò Miss Crawford a Fanny dopo aver riflettuto alquanto, e dirò a Mr. Maddox che si dovranno tagliare alcune delle sue battute, una gran quantità delle mie, prima che noi due si incominci a provare insieme. Sarà una cosa assai spiacevole e del tutto diversa da quanto mi aspettavo.